Canto trentesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto trentesimo. Quando il settentrion del primo cielo, che né occaso mai seppe né orto, né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva lì ciascuno accorto di suo dover, come il più basso face, qual timon gira per venire a porto, fermo s'affisse, la gente verace, venuta prima tra il grifone d'esso, al carro volse sé come a sua pace. E un di loro, quasi da ciel messo, «Veni, sponsa de Libano!» cantando gridò tre volte e tutti gli altri appresso. «Quali beati al novissimo bando surgeran presti, ognun di sua caverna, la rivestita carne alleviando, cotali in sulla divina basterna si levar 100, ad vocem tanti senis, ministri a messagger di vita eterna. Tutti dicean «Benedictus qui venis!» e fior gittando di sopra e d'intorno «Manibus odate didia plenis!» Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno e la faccia del sol nascere ombrata sì che, per temperanza di vapori, l'occhio lo sostenea lunga fiata. Così, dentro una nuvola di fiori, che dalle mani angeliche saliva e ricadea in giù dentro e di fuori, sovra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato che la sua presenza non era, di stupor tremando affranto, senza degli occhi aver più conoscenza per occulte virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima ch'io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col rispitto col quale il fantolin corre la mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: «Men che dramma di sangue a me rimasa, non che tremi, conosco i segni dell'antica fiamma.» Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé. «Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio, a cui per mia salute diemi!» Né, quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lagrimando non tornassero adre. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti convien per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben farla ancora. In sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suon del nome mio, che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'apparìo velata sotto l'angelica festa drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. Tutto quel vel che le scendia di testa, cerchiato dalla fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice e il più caldo parlar dietro riserva. Guardami ben, ben son Beatrice. come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso, io trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba, come ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietate acerba. Ella si tacque, e gli angeli cantaro di subito: «In te, Domine, speravi!» Ma oltre Pedesmeos non passaro. Sì come neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiatta e stretta dagli venti schiavi, poi, liquefatta, in se stessa trapela, pur che la terra che perde ombra spiri, sì che par fuoco fonder la candela, così fui senza lagrime e sospiri. Anzi il cantar di quei che notan sempre dietro le note degli eterni giri. Ma poiché intesi nelle dolci tempre lor compatire a me più che se detto avesser, donna, perché sì lo stempre? Lo gel che m'era intorno al cuor ristretto spirito ed acqua fessi, e con angoscia per la bocca e per gli occhi uscì del petto. Ella, pur ferme sulla detta coscia del carro stando, alle sustanze pie volse le sue parole così poscia: «Voi vigilate nell'eterno die, sì che notte ne sonna voi non fura passo che faccia al secol per sue vie. Onde la mia risposta è con più cura che m'intenda colui che di la piagne, perché sia colpa e duol d'una misura. Non pur per ovra delle ruote magne, che drizzan ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne, ma per larghezza di grazie divine, che sia alti vapori hanno a lor piova, che nostre viste là non van vicine, questi fu tal nella sua vita nuova virtualmente, ch'ogni abito destro fatto averebbe in lui mirabil pruova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col mal seme e non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovinetti a lui, me colmenava in dritta parte volto. Sì tosto, come in sulla soglia fui di mia seconda etade e mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui a lui men cara e men gradita, e volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera. Né l'imperare ispirazion mi valse, con le quali ed in sogno ed altrimenti lo rivocai, sì poco a lui ne calse. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua eran già corti, fuor che mostrarli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio de morti, e da colui che là quassù condotto di prieghi miei piangendo furon porti. L'alto fato di Dio sarebbe rotto se l'ete si passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lagrime spanda. Fine del canto trentesimo.